Il nostro appello nasce dalla constatazione che oramai la disinformazione ricorre in ampia misura alla tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa e quindi appunto con le AI generative vengono create immagini, video che purtroppo stanno diventando sempre più difficili da distinguere dalla realtà. In particolare poi abbiamo visto, questo già a ottobre-novembre 2025, un crescente numero di video di politici generati appunto, modificati con l'intelligenza artificiale, così detti deepfake, che potevano trarre in inganno le persone, in cui a questi politici venivano fatte dire o fatte fare cose che non avevano mai detto o fatto. Ora, per fortuna in Italia non è stato un fenomeno particolarmente di alto livello, qualche errore in buona fede c'è stato da parte di politici che magari hanno rilanciato questi contenuti deepfake dei propri avversari, ma credendo in buona fede che fossero reali. Però invece abbiamo visto che all'estero, ci sono paesi in cui la situazione è decisamente sfuggita di mano. Per esempio in Ungheria, il principale consigliere politico del primo ministro Orban ha diffuso un deepfake del candidato dell'opposizione, il leader dell'opposizione, Peter Magyar, e una volta che è venuto fuori che era un deepfake, non ha assolutamente ritrattato, anzi, ha rilanciato. Ora, se noi accettiamo che si possano creare dei deepfake che possono trarre in inganno le persone, in cui ai politici viene fatto dire di tutto, cose che non hanno mai detto, perché questo diventa uno strumento della propaganda politica, appunto il rischio è di mettere in pericolo l'esistenza di una realtà condivisa, che poi è una delle basi della democrazia. Quindi noi abbiamo appunto creato questo impegno, chiedendo ai partiti politici di firmarlo, e hanno firmato tutti tranne nella Lega, e si impegnano a tre cose sostanzialmente. Uno, a non creare o diffondere deepfake di altri politici. Due, se una diffusione avviene per errore in buona fede, non limitarsi a rimuovere il contenuto, ma informare le persone che l'hanno visto che si trattava appunto di un errore. E terzo, di sensibilizzare i propri iscritti su questi impegni. Questi tre semplici punti che però sono poi dirimenti, no? Nella questione anche di come affrontare la propaganda politica. Sì, secondo noi sono assolutamente dirimenti, anche perché, come dire, abbiamo visto, come dicevo, l'esempio di altri paesi in cui la situazione è andata peggiorando con la politica che aveva un ruolo di cattivo esempio rispetto al resto della popolazione. Qua invece in Italia, devo dire, siamo stati molto felici di riscontrare un consenso molto ampio, bipartisan, ripeto, tutte le forze politiche maggiori e minori, di destra, di sinistra e di centro, con un'unica eccezione della Lega di Salvini, hanno firmato questo impegno dando un buon esempio, facendo un'opera di prevenzione. Perché se i leader politici si rifiutano di fare questa cosa, a questo punto anche i loro simpatizzanti possiamo sperare che verranno sensibilizzati su questo argomento. Quindi siamo molto felici di questo risultato. E anche la Lega, interpellata dopo che l'appello appunto è stato diffuso e presentato alla Camera a fine dicembre, ci hanno spiegato che in realtà condividono il contenuto, anche se poi hanno legittimamente scelto di non firmarlo. Però, come dire, si sono impegnati informalmente anche loro a non fare ricorso a questo genere di strumenti per la propaganda politica. C'è chi dice, sì, però sono persone che con i propri bias cognitivi crederebbero lo stesso a quelle cose lì. Ma non sono particolarmente d'accordo, cioè c'è proprio una questione di dimensione del problema, cioè qua non si tratta del singolo contenuto generato con l'intelligenza artificiale, qua si tratta di affrontare una situazione in cui il mezzo di informazione è usato principalmente da intere generazioni, cioè i social media, in cui non c'è un direttore responsabile di una testata, ma io vedo un contenuto e spesso non ho neanche il tempo e la voglia di andare a verificare la fonte. Quel contenuto mi fa vedere un qualcosa che, se per carità ovviamente si allinea con i miei bias, mi fa scattare il fenomeno del bias di conferma, per cui facilmente ci credo. Però se poi appunto questi contenuti vengono rinforzati da intere campagne, da un diluvio di questi contenuti generati dall'AI, è molto facile che si spinga l'opinione pubblica in una direzione piuttosto che nell'altra. Cioè, se a un certo punto siamo invasi di immagini realistiche, di per esempio, non so, immigrati violenti, musulmani che fanno azioni assolutamente esecrabili e orribili, e questo bombardamento è costante, e noi tutto sommato finiamo un po' col confondere quello che è la realtà con quello che ha creato con l'intelligenza artificiale, la percezione poi della realtà cambia. E purtroppo questo lo sanno benissimo gli attori che fanno disinformazione, ma questa tecnica viene usata addirittura dagli stati, cioè sappiamo che c'è una disinformazione statale, per esempio, della Russia nei confronti della guerra in Ucraina, che serve esattamente, è funzionale alla propaganda di guerra della Russia, no? Quindi per il futuro bisognerà stare molto attenti sulla china su cui ci siamo messi, perché ripeto, è proprio a rischio, in pericolo, una delle basi della democrazia, il poter parlare delle stesse cose avendo la realtà come base comune di partenza. La vostra iniziativa cerca di agire, diciamo così, alla fonte, in chi potrebbe produrre, no, dei contenuti di questo tipo o rilanciarli comunque per uno scopo di propaganda politica. C'è bisogno, secondo te, anche di una maggiore alfabetizzazione invece di chi è destinatario di questi messaggi? Assolutamente sì, la nostra iniziativa, come dire, si concentra su quella che è, diciamo, la punta dell'iceberg, no? Cioè il caso potenzialmente più grave, secondo noi, in cui un politico crea coscientemente il deepfake di un proprio avversario e lo usa per ingannare le persone nella propaganda politica. Però alla base, poi, come dire, l'iceberg ha una base della piramide molto più vasta, e per contrastarla, quindi appunto anche i AI generati da semplici utenti, da gruppi, operazioni di disinformazione statali, come dicevo, eccetera, eccetera, è fondamentale che la popolazione venga educata. Ci sono paesi in cui la media literacy, cosiddetta, viene insegnata già alle elementari. In Italia purtroppo siamo ancora molto indietro, ma bisogna assolutamente che le persone di tutte le fasce di età vengano sensibilizzate ed educate su questi problemi.